quando ci andai io presidente era Casali Giovanni. Lui era un licenziato dalla Fiat, tecnico e quindi culturalmente più elevate delle persone, dei fonditori che non avevano tutti la quinta elementare. E quindi lui invece era un tecnico e diventò, cioè queste persone appunto si unirono. Una cosa che mi colpì tantissimo era che mi raccontavano che il consiglio d'amministrazione lo facevano la sera dopo il lavoro, mettendo il sedere su dei compressori, i quali compressori d'aria compressa, i quali compressori venivano raffreddati ad acqua ed era il posto più fresco che c'era, era nella sala compressori e i compressori lavoravano e loro facevano questa amministrazione lì. Queste figure mi imbarcarono, proprio imbarcarono nel senso di sentimento, di voglia di fare.